spento, che ha setato succhi alle esistenze per condurle qua. Nella mia città che non esiste, nella mia città, qui si viene a leccare merende sorseggiando stragi amicamenti dagli schermi ricchi di apparenze e reality show. Qui lo sai, è molto conveniente non pensare, non capire niente, mani in tasca, cinici e potenti, e poi gridare gol. Nella mia città che non esiste, tutti in fila dietro gli elementi che si perdono nella mia città che non...